ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it. Rosciani e Meazza, buongiorno! Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Beh, Deborah, un grande classico per cominciare questa mattina, devo dire. Ti sei alzato? Beh, mi sono alzato idealmente, devo dire, adesso mi alzo anche fisicamente, se vuoi, ma la sostanza è che volevamo tutti un po' alzarci per celebrare il fatto della poter portare i trolley, esatto, la retromarcia per poter portare i trolley nelle cabine degli aerei. Questo sembrava essere un grande risultato, o non era esattamente così, perché poi a leggere la notizia forse bisogna fare delle precisazioni, giusto? Ma guarda qua, allora, il punto è che l'ENAC, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, come ricorderete, aveva dato questa disposizione di non imbarcare il trolley nelle cabine degli aerei. Poi però che cosa avevano fatto? Avevano precisato, no, guardate, non è che non potete portare il trolley in aereo, a bordo, non lo potete mettere nella cappelliera, quindi se è un bagaglio, ecco, che ha una dimensione tale che può essere messo sotto il sedile di fronte al posto assegnato, allora sì. Scusate, se soprattutto è una donna, secondo te si porta dietro un bagaglio a mano minuscolo che va lì sotto? Noi abbiamo minimo bisogno della cappelliera, se non di tutta la stiva chiaramente dell'aereo. Detto questo, non è una battuta sessista perché l'hai detta tu. Me la canto e me la suono, come si suol dire, ma il punto è, quindi sembra che adesso possa arrivare questa marcia indietro nella disposizione dell'ENAC di vietare di imbarcare i trolley nelle cabine degli aerei. La rassicurazione è arrivata dal sottosegretario alla salute Sandra Zampa, peraltro l'ha fatta in un'intervista radiofonica non da noi ma altrove, ma ancora non ho ben capito se questa disposizione ci sia. Di fatto, se il bagaglio è piccolino, lo potete mettere sotto il sedile di fronte al posto assegnato? Sì. Ancora non sappiamo se possiamo tornare a riutilizzare la cappelliera. Guarda, facciamo così: siccome da oggi c'è anche tutto un nuovo DPCM con un riepilogo di cose che si possono fare, non fare, e beh, insomma, sui trasporti ovviamente è uno dei punti cruciali, quindi che si può fare sul taxi, che si può fare sul tram, sull'autobus, eccetera, eccetera. Allora io ti direi, domani giovedì Investire Informati e l'appuntamento è fisso, però magari venerdì ci facciamo una puntatina, nel senso una puntata, ma anche un sondaggino in questo DPCM, cerchiamo di capire cosa si può fare o non si può fare. Intanto oggi è mercoledì, ti volevo ricordare. Oggi è mercoledì, sì, e quindi parliamo di lavoro? È certo che parliamo di lavoro, anzi parliamo della sanatoria cosiddetta Colf e Braccianti. Braccianti. Devo dire molto Colf e poco Braccianti. Non è finita oggi? No, vedi che non sei allineata col decreto legge rilancio, il decreto legge 34, perché il decreto legge 34 ha fatto slittare questo termine fino al 15 di agosto, quindi c'è tempo e allora adesso a un mese data, verrebbe da dire, noi facciamo un riepilogo delle cose con naturalmente delle esperte, sono delle esperte di valore naturalmente mondiale, come sempre qui a Due di Denari. Ma diciamola tutta, Mauro, che questa proroga si è resa un po' necessaria perché la norma ha funzionato, ma non esattamente nella direzione che si voleva, e quindi in qualche maniera quei datori di lavoro che ancora non hanno ben capito che cosa fare con la regolarizzazione di alcuni dei loro occupati, si dà un po' più di tempo per appunto sistemare la situazione, soprattutto nel mondo agricolo. Non è andata esattamente come nelle speranze del ministro Bellanova, e quindi probabilmente c'è un po' più di agio adesso, temporale. e vediamo se questo servirà. La mia conclusione è corretta. Sì, sì, vediamo se questo servirà, perché pare che appunto ci siano dei problemi anche in radice. Ma invitiamo anche i nostri ascoltatori, se sono interessati, se hanno vicende da raccontarci, domande da porre. 800 24 00 24 è l'abituale numero verde per intervenire in diretta, oppure ci sono gli sms, ci sono i messaggi con WhatsApp 349 238 6666. Leggiamo tutto e, se possiamo, naturalmente vi rispondiamo anche direttamente. Adesso, cara Deborah, con l'auspicio del Massimo Filippo Aureggi, Massimo nel senso che è molto importante, forse il più importante di tutti noi in realtà in questo momento per andare in onda, e con il supporto di Luca Cremonese, nonché quello da remoto come sempre di Marco Lombardo, io partirei con un bel giornale radio del risparmio molto dedicato al lavoro, e poi andiamo con il tema della giornata, giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Stavo ripensando, Mauro, a tutta la gag dalla quale sono stata protagonista ieri mattina con Alessandro Milan e Leonardo Marera, nel corso della quale abbiamo parlato della situazione lungo la Riviera Marchigiana, che sembrerebbe molto soddisfacente per quello che riguarda l'afflusso di turisti, ma mi pare di capire che invece altrove il bilancio che si può fare fino a questo momento, o quantomeno anche la previsione per tutta l'estate, non sia particolarmente positivo, perché il settore del turismo in realtà sta lasciando a casa molti lavoratori e il comparto chiede una proroga immediata della cassa integrazione, no? Perché le prime settimane già concesse dallo Stato stanno esaurendosi e quindi bisognerà coprire anche quelle che stanno arrivando. Lo dice il Sole 24 Ore questa mattina, il 60% degli hotel è chiuso per assenza di clienti, mentre chi ha riaperto ha pochi ospiti e quindi solo una parte degli addetti è in servizio, e l'ombrello della cassa integrazione guadagni è indispensabile per salvaguardare i restanti. Dall'inizio della pandemia, lo ricorda Confindustria Alberghi, oltre 173.000 lavoratori hanno beneficiato dell'ammortizzatore sociale. Federturismo evidenzia che più di 40.000 aziende del comparto rischiano il fallimento a causa della perdita della solidità finanziaria. A giugno oltre 100.000 stagionali non sono stati convocati dalle imprese, quindi è un bilancio assolutamente nero, e peraltro fatto adesso che siamo a metà luglio non possiamo immaginare cosa potremo raccontare a settembre di questo mondo. Speriamo che agosto dia qualche segnale più incoraggiante, ma al momento appunto le notizie non sono buone, per cui il settore ha bisogno della proroga, come dicevamo, della cassa integrazione. E invece funziona, sembra funzionare bene lo smart working o telelavoro, o insomma lavoro da casa, quella modalità a cui siamo stati per lo più costretti in queste settimane di lockdown, di quarantena, ma poi abbiamo proseguito nell'utilizzarla anche nelle settimane successive. Devi sapere, e prelevo sempre dal Sole 24 Ore di oggi, Cristina Casadei informa di una ricerca LUIS che ci dice che un terzo dei lavoratori ha avuto difficoltà, ma gli altri hanno svolto regolarmente le attività da casa e in sicurezza. Questo valore è pari a 8 milioni di italiani, quindi 8 milioni di noi sono riusciti a lavorare, diciamo, tranquillamente o abbastanza tranquillamente anche da casa. Questa sintesi, secondo appunto Confindustria Digitale, è una sintesi che deve portare a ispirarsi per un modello organizzativo, quindi un po' diverso da quello che eravamo abituati a sperimentare prima della pandemia. E a questo proposito, infatti, è anche in corso un evento Smart Working Marathon, insomma una vera e propria maratona dedicata allo smart working, promosso da Copernico, e ci sono stati anche dei dati, hanno fatto un'indagine su 15.000 rispondenti del settore privato, donne e uomini quasi in pari percentuale, e hanno visto che quasi 8 manager su 10 consigliano lo smart working, e per quanto riguarda i lavoratori l'86% di lavoratori risulta entusiasta e intenzionata a continuare con la pratica del lavoro agile. Lavoro agile che ha bisogno anche, o potrebbe aver bisogno, di un ammodernamento normativo, mi pare, giusto Deborah? Direi assolutamente di sì. Peraltro, per chi volesse seguire questo evento, c'è la possibilità appunto di seguirlo in streaming. C'è questa tavola rotonda finale verso lo smart working del futuro, appunto la legge Resti Agili, e ci sarà proprio un dibattito su tutte quelle figure che in questo periodo hanno commentato, peraltro anche prevalentemente favorevolmente, l'evoluzione del mercato del lavoro in questa direzione. E ci saranno, tra gli altri, stasera appunto alle 17 in questa tavola rotonda conclusiva, Maurizio Del Conte, già presidente di ANPAL, lo abbiamo avuto tante volte ospite della nostra trasmissione, alcuni esponenti del mondo sindacale, quelli più favorevoli appunto a questa modalità di lavoro, fra cui Marco Bentivogli, segretario generale uscente della FIMCISL, e poi anche esponenti politici, per cui si tenterà, immaginiamo, anche di mettere a tappeto tutte quelle idee per consentire di come dire, rendere un po' strutturale, no, questa modalità di lavorare, che è stata assolutamente vincente sia per gli individui, per i lavoratori, ma anche per molte aziende che in realtà non avrebbero mai immaginato di potersi convertire in tempi così rapidi, come è stato necessario fare durante la pandemia, a questa modalità di lavoro. E tra l'altro, oltre a lavorare diversamente, ci spostiamo anche in maniera diversa, Mauro, no? È proprio così, infatti l'autorità di regolazione dei trasporti ha condotto un'altra indagine e ha verificato che il 37% del campione ha cambiato i comportamenti di mobilità durante appunto la fase 2, quindi quando si è tornati a poter uscire ovviamente, rispetto ai comportamenti che teneva prima che tutto questo cominciasse. In particolare, gli intervistati hanno dichiarato di aver ridotto gli spostamenti con tutte le modalità di trasporto, a eccezione della mobilità cosiddetta sostenibile, quindi parliamo di spostamento a piedi, bicicletta, monopattino, scooter, sharing e così via. In realtà lo sharing con autovettura sapevo da altre indagini che ha sofferto un po' di più, però questo è il dato, quindi stiamo cambiando anche le nostre modalità di mobilità. Scusate, è quasi uno scioglilingua. Ti posso dire una cosa in ultimo? C'è un provvedimento firmato dall'Agenzia delle Entrate. Stavo già interrogandomi, ma non è che lascerà a me la notizia sui crediti di imposta per le spese di sanificazione? Sai che sono geloso. Scordatelo. Sulle questioni fiscali. quindi voglio dirla io, questa cosa è importante. No, scherzi a parte, è importante perché è stato firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini il provvedimento che consente di utilizzare i crediti di imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. C'è anche una circolare, trovate tutto sul sito dell'Agenzia delle Entrate, agenziaentrate.gov.it. spesso diciamo i siti della radio del Sole 24 Ore, però anche quelli istituzionali insomma hanno un loro perché. Deborah. Deborah adesso lancia lo sportello dei reclami di Due di Denari, sentiamo. Dillo a Due di Denari. Buongiorno, sono Filippo d'Arezzo, complimenti per la trasmissione. Io a febbraio ho fatto un po' di preventivi per comprare una macchina, poi a fine febbraio ci hanno chiusi tutti in casa. Adesso che hanno riaperto tutto ho rifatto lo stesso preventivo della stessa macchina, visto che ci sono tutti questi famigerati ecoincentivi. Ecco, il risultato è che su una ho uno sconto ulteriore di 100 euro rispetto a febbraio e su una ho uno sconto ulteriore di 400 euro rispetto a febbraio. Quindi tutti questi incentivi non mi sembra che siano poi così effettivi, non mi sembra che le concessionarie abbiano tutto questo bisogno di vendere auto. Però l'ammonimento del saggio Maurizio Caprino diceva aspettate il primo di agosto, perché lì partono tutti, vanno a regime vecchi e nuovi incentivi. Adesso io non sono in grado, ma chi vuole ricostruire il tutto può riascoltare sul sito di Radio 24 la puntata di ieri, dove Maurizio Caprino ha dottamente spiegato il meccanismo di incentivi vecchi e nuovi. Quindi può darsi che magari con agosto il quadro segnalato dall'ascoltatore vada a migliorare. Noi naturalmente glielo auguriamo. Ma scusami, lui però ha detto che in realtà rispetto ai preventivi di febbraio adesso gli stessi modelli per i quali ha rifatto dei preventivi venivano ulteriormente scontati. Lui dice non mi sembra che le concessionarie abbiano così bisogno di vendere auto, ma scusami, sembrerebbe il contrario. Se lo sconto praticato è più importante nei mesi scorsi è perché evidentemente il parco auto fermo lì a stazionare nelle concessionarie forse va alleggerito e liberato. Non so, forse ho capito male la questione posta dall'ascoltatore. È che sai, gli importi in gioco sono da 1500 fino a 6000 euro e quindi uno si aspetta un po' di più di quello che ha incontrato l'ascoltatore. Però ripeto, ah, in quel senso, in quel senso, io lo interpreto così, spero correttamente. Ho capito, sì, hai ragione. Ma vediamo, stiamo a sentire, anzi, e stiamo a sentire anche la nostra rubrica abituale del mercoledì, cioè dov'è il nuovo lavoro? Dov'è il nuovo lavoro? Faccio io gli onori di casa a due signore, due graditissimi ospiti che tornano a trovarci. Teresa, benvenuto, segretario nazionale di Assin.Golf. Buongiorno, bentornata a Due di Denari. Buongiorno a tutti. E Valentina Melis, collega del Sole 24 Ore, anche lei una voce nota agli ascoltatori Radio 24. Bentornata Valentina, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Deborah, da dove vuoi cominciare con questa disamina dell'ultimo mese per la sanatoria Colf e Braccianti, ultimi 30 giorni? Esatto, partiamo dai dati, se ritieni, perché il Sole 24 Ore aveva tracciato un bilancio sull'andamento della sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari, manifestando, proprio evidenziando come non tra i braccianti questa operazione fosse andata particolarmente bene, contrariamente agli obiettivi e agli auspici del ministro, appunto, Teresa Bellanova. Abbiamo poi avuto proprio venerdì scorso un ulteriore bilancio, un'ulteriore serie di dati che sono stati rilasciati dal Ministero dell'Interno. Dal Viminale abbiamo richieste di regolarizzazione che sono circa 100.000, fortemente sbilanciate verso il lavoro domestico. Volevo chiedere a Valentina se ha dati ulteriormente aggiornati rispetto a questo di 5 giorni fa, ma credo che sia assolutamente l'ultimo erogato da parte pubblica, rilasciato da parte pubblica, e quindi Valentina, che bilancio possiamo trarre rispetto a questo primo mese di operazione per la quale si è resa necessaria questa proroga? Beh sì, allora innanzitutto, come dicevi tu, c'è un forte sbilanciamento delle domande sul fronte del lavoro domestico, ma storicamente anche nelle sanatorie del 2009 e del 2012 l'agricoltura aveva rivestito un ruolo assolutamente secondario. Un 4% di domande nell'ultima sanatoria erano riferite all'agricoltura. Questo perché appunto l'agricoltura ha beneficiato dei decreti flussi, molti lavoratori agricoli sono comunitari, quindi sono bulgari, polacchi, e non necessitano appunto di queste procedure, e perché poi c'è una parte fisiologica, diciamo, di lavoro irregolare che purtroppo non ha in queste procedure non trova un grande appeal, diciamo, in questa procedura di immersione, che invece era molto attesa dai datori di lavoro domestico e delle associazioni che li rappresentano, perché i lavoratori irregolari, gli extracomunitari, diciamo, sono stimati in oltre 500.000 nell'ambito del lavoro domestico, di questi, secondo ISMU, 311.000 senza permesso di soggiorno. I due fenomeni sono probabilmente collegati, cioè il fatto di essere in nero a volte è motivato anche dal fatto che il lavoratore domestico non ha un permesso di soggiorno, quindi il fatto che l'88% delle richieste di emersione si riferisca al lavoro domestico probabilmente riflette proprio questa ampiezza del fenomeno dell'irregolarità sia di lavoro sia di soggiorno proprio nell'ambito del lavoro tra le mura domestiche. E poi c'è anche, tra l'altro, scusate se vi interrompo, ce l'aveva detto il presidente di Assin.Golf, ti ricorderai Mauro, nelle puntate precedenti, che in realtà questa pandemia paradossalmente ha reso proprio indispensabile per molte famiglie italiane poter approfittare di questa operazione, perché chiaramente con tutte le misure di distanziamento molto spesso molti collaboratori familiari hanno dovuto rinunciare alla loro prestazione professionale tra molte famiglie, mettendo in grande difficoltà anche chiaramente i nuclei familiari che avevano bisogno soprattutto di persone che si occupassero degli anziani, per cui paradossalmente anche in questo frangente di difficoltà e fragilità economica per molti, per altri si è invece aperta questa possibilità di regolarizzare queste persone, magari in una circostanza diversa non sarebbe successo con questi tempi così veloci. Mauro, no? Che ne pensi? Ti ricordi quando ne parlavamo? Certo, ma io chiamerei subito in causa su questa tua osservazione appunto Teresa Bellanova, che è benvenuto, pardon, promossa ministro addirittura. L'abbiamo promossa ministro. sinistra, esatto. Mi perdoni. Sarebbe peraltro molto competente, noi siamo assolutamente certi. Ma ci fosse mai un ministero per il lavoro domestico che se lo meriterebbe, forse potremmo pensarci. Per il prossimo governo. Senta, lei condivide questa indicazione? Sì, insomma, c'è stato questo un po' questo incrocio, la pandemia che ha limitato quasi il ricorso al lavoratore, al collaboratore domestico, e dall'altra parte però la possibilità di emersione in un settore che è spesso caratterizzato da rapporti irregolari in tutto o in parte. No, quasi in tutto irregolari. Stimiamo sempre che su 10 lavoratori 6 sono irregolari e 4 dichiarati, quindi è un settore molto che ha molto presente questa componente di irregolarità. Devo dire che il ricorso così evidente all'emersione, come è registrato nelle prime 100.000 domande, quindi nella prima fase di questo periodo di regolarizzazione, è anche il risultato di una mancanza di flussi regolari negli ultimi 10-12 anni per il settore domestico, per cui si era creata una sacca di lavoro irregolare del settore domestico, da noi stimata con un'esigenza di 250.000 unità, che sta emergendo. Sono 81.000 allo stato attuale, allo stato del 9 luglio, crediamo sicuramente di arrivare a 200.000, se non a 250.000 alla fine della sessione. Quindi si arriverebbe più o meno alla platea che avevate stimato come necessaria da emersione. Noi prevedevamo appunto un'emersione, ma anche richiedevamo uno studio fatto a dicembre ritornare ad una programmazione ordinaria dei flussi regolari, per far sì che si potesse sopperire all'esigenza sempre presente e costante che abbiamo dell'assistenza agli anziani, e quindi avere sempre l'infa di personale con i documenti in regola, quindi la possibilità di assumerli regolarmente. Certo. E come avete rilevato, sì, la pandemia, come diceva giustamente il dottor Zini negli interventi precedenti fatti con la vostra trasmissione, la pandemia ha fatto emergere, ha dato, diciamo, ha reso messo in chiaro questi rapporti di lavoro che abitualmente all'interno delle mura domestiche spesso sono gestiti in una condizione di termine elegante volevo usare, precarietà confidenzialmente corretto, mi piace molto. Allora, confidenzialmente, però, io vi invito ad avere un attimo di pazienza, poi torniamo anche sulle procedure a beneficio di diversi ascoltatori che ci chiedono di riepilogare, esatto, le modalità, ma tutto questo succederà dopo che Deborah ci avrà aggiornato sulle borse. Tutti questi esperti qua, ma per quale finanze? Le vostre, quelle dei ricco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Il CAF presso il quale mi sono recata per farmi dare una mano nella compilazione della domanda per una nuova assunzione di lavoratrice extracomunitaria mi chiede il permesso di soggiorno in corso di validità. Io mi pareva di aver capito che non serviva il permesso di soggiorno, altrimenti che senso avrebbe la regolarizzazione? È forse il caso, Deborah, di fare un pochino di riepilogo sulla materia. Sì. Non so, vogliamo far cominciare a Valentina Melis. Innanzitutto il sito di riferimento è il sito dell'INPS. Il sito dell'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Fate attenzione, perché proprio ieri nel pomeriggio il sito dell'INPS ha diffuso un messaggio, un alert molto importante. Stanno girando delle email, è phishing, sono truffe, che dicono volevamo darvi 600 euro, però lei non ci ha dato bene i suoi dati bancari, per favore risponda qui. No, ecco, non è l'INPS che vi sta scrivendo, è un truffatore, quindi fate attenzione, contattate piuttosto le sedi INPS o guardate sul portale dell'INPS. Valentina, scusami, era un'informazione di servizio, un alert, un avviso per tutti quelli che poi ricevono queste... Ce ne abbiamo una al giorno praticamente. Purtroppo sì. Certo. Valentina. Ma in realtà per mettere in regola un lavoratore domestico domestico, accedendo appunto alla procedura fissata dal famoso comma 1 dell'articolo 103 del decreto rilancio, quindi quello in cui è il datore a mettere in regola il lavoratore, non serve avere il permesso, perché diciamo che il certificato di aver, la certificazione con la quale il datore attesta di aver presentato la domanda vale già come titolo utile per poter lavorare, fino a che non ci sarà la convocazione allo sportello unico, no? Per sottoscrivere proprio e formalizzare tutta la procedura e quindi ottenere il permesso di soggiorno. Quindi è una richiesta un po' eccessiva, quella impropria, quella di chiedere appunto il permesso di soggiorno del lavoratore, altrimenti, come ha ben annotato l'ascoltatrice, non avrebbe senso, diciamo, avviare la procedura di emersione. Però il rapporto di lavoro deve essere iniziato prima di una certa data. Adesso chiamo in causa Teresa Benvenuto. Quali come vincoli che sono posti per questa regolarizzazione? Maggio. In realtà il rapporto di lavoro può essere già in essere con il soggetto che si vuole regolarizzare per la posizione dei documenti, oppure può nascere, e questa è la novità di questo decreto rispetto a quelli degli anni precedenti, può nascere nel momento in cui si presenta la domanda, quindi può essere un rapporto di nuova costituzione. E voglio precisare che quando si fa una richiesta per far ottenere, per regolarizzare il rapporto di lavoro, ma soprattutto per regolarizzare la posizione di soggiorno di questa persona in Italia, quindi se è un irregolare non ha i documenti, la domanda va presentata presso lo sportello unico dell'immigrazione, quindi presso il Ministero dell'Interno. Lo si può fare, diciamo, in maniera individuale, lo può fare il datore di lavoro cittadino con il proprio SPID, oppure rivolgendosi a degli intermediari. E poi invece c'è un'altra procedura, che è quella che può presentare sempre un datore di lavoro per regolarizzare una posizione lavorativa irregolare con un cittadino italiano o comunitario, e questa si presenta all'INPS. E diciamo che possiamo anche dire che questa è la procedura, nella procedura è il grande assente, cioè pochi stanno attingendo a questo tipo di procedura e noi ne siamo dispiaciuti, perché, come abbiamo detto inizialmente, il settore rileva una grande presenza di irregolarità per condizione lavorativa, e questa era un'opportunità riservata alle famiglie per regolarizzarlo. A nostro avviso la sola procedura così come è stata impostata non è sufficiente per invogliare le famiglie a regolarizzare il rapporto di lavoro domestico in essere con persone presenti in Italia regolarmente, quindi italiani o comunitari, e che a nostro avviso dovrebbe essere supportata dalla famosa defiscalizzazione di cui facciamo ormai da anni richiesta, per incentivare le famiglie a regolarizzare il lavoro domestico. Peraltro già oggi una parte... Sì, scusami Deborah, prego. No, no, no, finisci il ragionamento. No, stavo pensando al fatto che molto spesso sono anche... Sì, ci accavalliamo, gli ascoltatori ci scuseranno, ma purtroppo lavorando ancora per poco, a distanza, ci capitano questi piccoli incidenti di percorso. No, stavo pensando che molto spesso anche il fatto che sollevava Teresa Benvenuto, che sono le famiglie che non si attivano per la regolarizzazione di lavoratori comunitari o italiani, spesso diciamo che sono gli stessi lavoratori che preferiscono tenersi mano libera e magari così lavorare per più famiglie, perché sappiamo che c'è anche questo fenomeno. Non è naturalmente un giudizio quello che ho, sono sicuramente delle situazioni di necessità, ma magari non si trova l'interlocutore unico che ti regolarizza, dottoressa Benvenuto, e forse c'è anche questo aspetto che complica un po' la vita a tutti gli attori del processo. Assolutamente, c'è una sovrapposizione di interessi, diciamo, non sempre forse contrastanti, che vanno in una direzione che ci porta lontano da quella dell'emersione, della regolarità. Noi vorremmo avere più leve per coinvolgere datori e lavoratori e indirizzarli verso un cammino di regolarità, che mi sembra la soluzione diciamo ottima per il governo, per il versamento dei contributi e quindi per i diritti dei lavoratori e le tutele dei datori di lavoro. Quindi è per questo che è una cosa a cui teniamo, e in virtù di questo un prolungamento del periodo per cui si possono presentare le domande sarebbe, diciamo, una ulteriore richiesta oltre a quella della defiscalizzazione da abbinare a questo procedimento. La defiscalizzazione, questo mi aveva stimolato prima, era appunto il fatto, al momento è deducibile quanto pagato in contributi sia dal datore sia la quota del lavoratore domestico. Voi chiedete una defiscalizzazione, cioè il fatto di poter portare a sconto dell'IRPEF, diciamo così, poi si capirà in che formula, se detrazione o deduzione, quanto viene pagato, viene corrisposto come compenso, capisco bene? La retribuzione, il costo della retribuzione di questo personale, perché appunto non siamo un'azienda, siamo una famiglia, abbiamo un reddito già tassato e però abbiamo del personale che contribuisce a determinare questo reddito, perché se io esco e lavoro, vengo in ufficio tutti i giorni, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti con i bambini o con gli anziani che ho, quindi è un dipendente al pari di un dipendente inserito in un'azienda. E allo stesso modo deve essere diciamo portato in deduzione o in detrazione, questo appunto poi saranno, diciamo, passi successivi da verificare, ma noi preferiamo la deduzione, deve essere dedotto dalla dall'imponibile su cui poi, ecco, certo, per poi pagare di IRPEF, un IRPEF differente che sicuramente questo diventa una leva motrice per imporre al lavoratore la regolarizzazione. E quindi scegliere solo quelli che vogliono essere regolarizzati, quindi si creerebbe un circolo virtuoso di una regolarità nel settore che permetterebbe anche a questi lavoratori di accedere solo se hanno diritto a tutta una serie di attività con un ISE, diciamo, determinati da un ISE che non al momento sì, non ha una presenza lavorativa, un reddito da lavoro. Certo, per uscire dal nero, detto in una parola brutale e non bella. Adesso ci fermiamo perché c'è il traffico. A chi posso chiedere un prestito per comprare un'auto nuova? A noi. E per ristrutturare casa? Sempre a noi. Con Poste Italiane puoi accedere a un'ampia gamma di prestiti personali per realizzare i tuoi progetti. Perché non abbiamo mai smesso di dare risposte ai tuoi bisogni. Scopri le offerte su poste.it o all'ufficio postale. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prestiti BancoPosta sono prodotti di finanziamento collocati da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta ed erogati da Intesa San Paolo S.p.A. esclusivamente presso gli uffici postali abilitati. Compass Banca S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. e Findomestic Banca S.p.A. in virtù del relativo accordo distributivo non esclusivo sottoscritto fra le parti, senza costi aggiuntivi per il cliente. Due di denari. Debora, abbiamo un ascoltatore con una domanda puntuale, vogliamo sentirlo? Molto bene, assolutamente sì. Luigi da Roma. Luigi, buongiorno. Luigi? Sì, buongiorno. Ci chieda, Luigi. Sì, dunque la domanda è questa qua, se posso regolarizzare una persona come badante in questo caso, extracomunitaria, che è arrivata in Italia adesso con il visto turistico, nel senso dopo la riapertura del Covid. Visto turistico ancora in corso, quindi ancora in corso di validità. Sì, è arrivata tipo 15 sì, giorni fa. Sì, lo chiediamo subito alle nostre ospiti. Teresa, benvenuto. La presenza doveva essere precedente all'8 marzo 2020, quindi tutti coloro che entrano, diciamo, anche in maniera corretta con un permesso turistico non possono essere regolarizzati, entrano successivamente a questa data. Ecco, purtroppo una risposta negativa per il nostro ascoltatore. Debora, io come ultima domanda chiederei alla collega Valentina Melis, ma visto che ci stiamo affidando comunque a un decreto legge, magari qualcosa cambia ancora, oppure no, ormai questo è stabilito e non avremo ulteriori novità a breve. Valentina. Allora, il decreto rilancio sta per essere convertito in legge dal Senato nel testo su cui la Camera ha votato la fiducia e questo articolo, tranne che nella scadenza della sanatoria che è stata prorogata il 15 agosto, prorogata, non ha subito modifiche. Quindi anche su alcuni aspetti che erano stati segnalati come critici, no? Quindi la limitazione ai soli due settori dell'agricoltura e del lavoro domestico, il fatto che non ci fosse un vincolo di tenere i lavoratori per un periodo, quindi si può assumere un lavoratore domestico anche a termine e poi, come è successo nel 2012, il numero dei lavoratori domestici regolari è precipitato l'anno dopo, nel senso che molti sono confluiti nuovamente nel nero. però tutte queste segnalazioni che erano pure emerse quando il decreto rilancio è stato approvato non hanno trovato per adesso accoglimento, e quindi è presumibile che il quadro regolatorio rimanga quello che è oggi. Sulla data dell'8 marzo, come sottolineava Teresa Benvenuto, era normale che ci fosse una deadline, perché altrimenti, pubblicato il messaggio che c'era una sanatoria in corso, sarebbe stato come dire ammettere tutti anche dopo la data dell'emergenza sanitaria, avrebbe probabilmente aperto le porte ad arrivi ulteriori di massa, ai lavoratori anche, che già erano qui, no? E quindi con una gestione anche poi complessiva molto difficile, non solo dal punto di vista dell'emersione. Grazie a Valentina Melis. Deborah, sento che vuoi dire qualcosa. Deborah, volevi salutare tu Teresa Benvenuto? No, volentieri, magari 30 secondi vorrei rubarli ancora a Valentina Melis per chiederle un commento sul tema dei lavoratori dei braccianti, però se ritiene che questo mese in più dato dal governo con questa proroga possa spingere un maggior numero di regolarizzazioni in questo campo, che era quello più ricercato. Valentina, la tua sensazione? Ma allora, da quello che ci hanno raccontato le associazioni come Coldiretti e altre, non sembra che possa esserci un'impennata di domande, un po' come dicevo in apertura, perché molti lavoratori agricoli sono comunitari e quindi arrivavano già negli anni scorsi. Quest'anno c'è stato il problema dell'emergenza, ma molti non hanno bisogno di regolarizzazione, e quella ampia area che invece sottostà al caporalato e a un controllo del territorio anche da parte di organizzazioni criminali in alcune aree del paese difficilmente emerge con questo tipo di procedure, e quindi è un intento meritorio quello di regolarizzare anche quella parte di lavoratori, ma sull'agricoltura, ripeto, le precedenti sanatorie non ci hanno mai dato grossi numeri. Grazie bene. Valentina Melis, grazie a Teresa Benvenuto, segretaria nazionale di Assindatcolf, e noi a questo punto passiamo all'ultimo appuntamento del mercoledì, ormai un appuntamento fisso, sigla. Rinascerò, rinascerai, quando tutto sarà finito. Questa è la sigla che introduce Roberto Bonzi, oramai ospite fisso del mercoledì, giornalista fondatore di Italiani di Frontiera e direi cacciatore di storie, di persone, professionisti, non professionisti, insomma gente che si è reinventata in qualche modo. Aveva una vita ma ha scelto di così dare a questa vita una svolta, magari anche vincendo le resistenze e le perplessità che potevano esserci. Buongiorno Roberto, innanzitutto. Buona giornata Mauro, accidenti, che intro tra la musica e questa presentazione. Dici che sono stato un po' troppo, l'ho presa un po' alta? No, spero non sia. Lo mandiamo in ansia di prestazione. Adesso. Esatto. No. Senti, utilizziamo invece un altro termine che finisce con one, regolarizzazione. So che ti sei sentito abbastanza stimolato dal tema che abbiamo scelto per il nostro programma. Purtroppo Roberto abbiamo 2 minuti, ma racconterai le tue storie in maniera efficace. Come sempre andiamo per la tangente. Regolarizzazione è un problema drammatico per gli Stati Uniti e soprattutto, ma non solo, per Silicon Valley, perché il bisogno di attrarre i migliori da tutto il mondo è legato al fatto dei documenti di immigrazione, e questo sta diventando un problema sempre più complesso. Io cito solo 2 brevissimi casi che sono esempi di eccellenze che hanno saputo attrarre. Uno è Marcello Forconi, chimico bolognese, che dopo 2 esperienze umilianti a Bologna decide di mandare una lettera a un professore di Stanford, una persona che non aveva mai visto senza nessuna presentazione. In base a quella lettera lui è stato chiamato a Stanford, oggi è chimico, è insegnante di chimica al College Charleston, South Carolina. La sua riflessione per ne usciremo migliori, che cosa può generare in positivo questa esperienza del virus, sicuramente ha selezionato in maniera brutale le nostre radici e le nostre ali, cioè ha fatto capire cosa del passato diventa la base sulla quale costruire il nostro futuro e quali sono gli strumenti, le ali, quindi quelle cose che veramente ci possono far andare in prospettiva e magari scoprire nuovi strumenti. Il secondo caso, sempre una grande eccellenza, Silvio Sanginetto, che parte da Paola Cosenza, è un esperto di user experience. Dopo aver lavorato in diverse start-up, oggi lavora a Microsoft, San Francisco e Seattle. Di cosa ha bisogno l'Italia per uscire da questa emergenza? in qualche modo lui è un esempio vivente, cioè di giovani che sappiano sognare, che non si accontentino della quotidianità, nel suo caso quello della provincia del sud, e scommettano sul futuro, magari trasformando quelle che sono le proprie competenze, nel suo caso appunto essere un esperto di progettazione dell'esperienza degli utenti, magari anche in funzione di cose che riguardano il dopo emergenza. Vuol dire che magari anche usciranno probabilmente nuove professioni anche da questa esperienza che abbiamo vissuto. Non si tratta ovviamente solo di costruire mascherine, di realizzare e produrre mascherine, ma un'infinità di strumenti, di tecnologie e di innovazione che possono cambiare il nostro rapporto con il mondo. E ce lo auguriamo tutti. Grazie a Roberto Bonzio. Deborah, il nostro tempo così per oggi si è concluso. Torniamo domani con Investire Informati. Assolutamente sì, buona giornata a tutti. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.